Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qua, cari ascoltatori, 8:22 primi e 20 secondi. Questa settimana, per chi ha sentito la rassegna stampa, ha sentito Giulia Crivelli, già lo sa, ma io tocca ribadirlo, il mio compare, mio fratello Alessandro Milan non c'è questa settimana, quindi dalle 8:15 alle 9 vi tengo compagnia io, ma tenete compagnia anche voi a tutti quanti, però, quindi chiamate 800 24 00 24. E oggi, ahimè, lo dico a me perché con Alessandro tentiamo di evitare che il più delle notizie e del tempo sia dedicato alla politica italiana, però i commenti vanno alle elezioni amministrative nei capoluoghi in cui si è votato, per tentare di capire chi ha ragione, chi non ha ragione, che cosa è successo davvero, però anche alle elezioni francesi. Per favore, diteci anche la vostra su il trionfo pazzesco di Macron, perché voglio dirvelo, oggi tra i santi do i miei auguri a chi si chiama Onofrio, Placido, poi anche San Basilide, ma insomma i Basilide non sono poi così diffusi. E voglio dirvi che però il mio ricordo oggi va, siccome è un anno preciso, ecco, ricordiamo le stragi di terrorismo. Allora, un anno fa a Orlando, in un locale gay, furono uccisi oltre 50 persone con decine e decine di feriti, in un locale gay rivendicato dall'ISIS, quindi ricordiamocelo. Però io voglio dirvi che in realtà nel 1965, oggi, nasceva veniva pubblicato un brano dei Rolling Stones che ha fatto la storia e che in sintesi esprime perfettamente il mio giudizio paragonando la Francia del trionfo di Macron e l'Italia. Ecco, e questo è il brano. Sì, era proprio Satisfaction, e tutto sommato io direi che persone ragionevoli, ma io rispetto l'opinione di tutti, magari sono in minoranza, non possono che, se facciamo un paragone, capire che in Francia è in moto una rivoluzione vera in cui un uomo privo di pecche, senza compromessi sulle tangenti, dicevano ma non ha esperienza politica istituzionale, non è mai stato eletto neanche un condominio, bene, prima ha vinto contro i candidati di tutti i partiti, quelli antisistema e dei vecchi partiti, cioè dei socialisti e del MP, come contro Le Pen, ha vinto l'Eliseo e alle legislative, quando io per primo, insieme a tanti meditabondi, interpreti dei sistemi elettorali, dicevano vabbè, ma le legislative non ce la farà mai da solo ad avere la maggioranza assoluta. Invece la portata della rivoluzione di Macron, uomo senza macchie fino a questo momento, così è, e guardate che hanno cercato di tutto per trovarla, ma contro tutti i vecchi partiti, socialisti come liberali, come Le Pen, non antisistema, e per l'Europa, si avvia da solo, senza avere un eletto prima in Francia, ad avere la stragrande maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale. Le rivoluzioni dal basso possono avvenire, che vi dicano, in Italia, contro tutti i vecchi partiti, non antisistema ma per l'Europa. Va bene, questo è il risultato chiaro del primo turno, poi ci saranno i ballottaggi in Francia, ma insomma tutte le proiezioni dicono che il risultato è incredibile, cioè i socialisti corrono il rischio di perdere i 9 decimi degli eletti all'Assemblea Nazionale, i voti al Fronte Nazionale, il Fronte Nazionale avrà pochissimi eletti, 3, 4, 5 al secondo turno, e anche lì hanno perso la metà dei voti. E questo da una parte quello che avviene in Francia. Che cosa avviene in Italia? In Italia, dopo aver passato i mesi a dirvi che ci vuole il proporzionale, perché secondo loro lo avreste scelto voi nel referendum del 4 di dicembre, sapete qual è la tiritera che viene ripetuta dai partiti, capisco che c'è chi lo vuole proporzionale, ma viene ripetuta dal PD, il partito a vocazione maggioritaria. Ebbene, quello che si capisce è che dove si vota invece con un altro sistema, cioè nelle città, oggi sono gli stessi a vantare, tutti i titoli dei giornali sono omologhi, no? Oggi i titoli dei giornali che trovate sono i 5 Stelle sconfitti, questo è il Corriere della Sera, la Repubblica, Comune, la frana di Grillo, la Stampa, il voto delle città punisce i grillini, il Messaggero, sindaci battuta d'arresto, M5 Stelle. Questo è il dato che trova tutti uniti, perché poi nell'interpretazione del voto molti sono fottuti dal fatto che le proiezioni quando i giornali sono stati chiusi non erano ancora quelle definitive, quindi tutti danno per perdente o vincente questo o quello, ma sono tutti allineati su questo e sono tutti allineati anche nei commenti politici su questo, il che dovrebbe interpretare una specie di grande tripudio, capita nei giornali, anche da parte del PD, il che a quel punto, perdonate il mio commento, non fa capire bene perché il PD sia diventato proporzionalista, perché come è evidente la proporzionale è il potente stimolo all'identità di ciascuno, la proporzionale significa non allearsi con nessuno, non dire programmi di governo prima né fare alleanze, è l'esatto opposto di quello che capita con la legge elettorale nei comuni sopra i 15.000 abitanti, dove invece si premia la convergenza, le alleanze e gli scambi uno contro uno per andare in ballottaggio. Che quale sia il motivo per cui possa tripudiare chi vuole il proporzionale sul risultato delle città a me sfugge, ma evidentemente è un limite mio perché sono diventato troppo ironico sul sistema politico italiano. Allora, il primo dato che ho trovato tutti uniti è appunto la frana di Grillo. La mia controopinione è che questo dipende dal sistema elettorale. Il sistema elettorale dei comuni, lo abbiamo visto che cosa incentiva. Il sistema verso il quale andiamo, la proporzionale a livello nazionale, ha l'esatto effetto opposto. Quindi, secondo me, i partiti fanno bene a non scambiare l'effetto di una legge elettorale per la crisi a livello nazionale dei 5 Stelle. Ma questa è la mia opinione. Dopodiché, il mio secondo elemento di lettura è che il centrodestra va molto meglio di quanto non sia il PD disposto ad ammettere. E quindi il PD, che ha avuto scissioni nel frattempo e che ha un problema, visto che in una settimana Renzi è dovuto passare dall'alleanza storica sulla legge elettorale con Berlusconi e Grillo a invocare Pisapia a fare un'alleanza con lui, vedo che il problema c'è per il centrosinistra. Perché se andate a vedere nei capoluoghi, beh, insomma, il centrodestra va molto meglio di quanto non sembrasse. Per il centrosinistra ci sono molti elementi di riflessione, ecco, mi limito a dire questo, perché nei capoluoghi alla fine c'è la grande vittoria di Palermo, ma è una vittoria sua per così dire, e in Lombardia per esempio nei comuni è evidente che il centrodestra torna a fare pieni di voti molto significativi. Certo, il PD c'è, però non ha quel ruolo di vele gonfie che sembrava avere fino all'anno scorso, per così dire. Niente di male, però si tratta di interpretare. A Parma Pizzarotti si prende una bella soddisfazione, perché con il suo 34,7%, sono 205 sezioni su 207, ha comunque 2 punti di vantaggio su scarpa del centro-sinistra, mentre la candidata 5 Stelle si è fermata al 19,3%. A Verona sarà un confronto tutto destra-destra, perché il candidato Sboarina del centro-destra ha il 29,3%, la Bisinella, la senatrice Bisinella, la tosiana, cioè espressione del sindaco, a differenza di quanto hanno scritto tutti i giornali, è lei a contendergli il voto, perché è andata al 23,6%, mentre il centro-sinistra con Salemi si è fermato al 22,4%. Però, insomma, per la sinistra il dato di Genova, Bucci del centrodestra in vantaggio al 38,7% rispetto a Crivello del centro-sinistra al 33,4%, è un elemento sicuramente riflessione. Questo per fermarci ai 4 capoluoghi maggiori. Però chiamateci per dirvi cosa ne pensate, cosa ne pensate di chi esulta con una legge elettorale completamente diversa da quella che vi propone le nazionali, e nel paragone con Macron che cosa questo vi sembri. Ma queste sono le mie opinioni, perché abbiamo, come tutti i lunedì, in realtà due colleghe che ci possono illuminare con opinioni ben diversamente fondate, molto più ragionevoli e più sagge. Quindi io ringrazio Elisa Calessi. Ciao Oscar, buon lunedì a te e agli ascoltatori. Beh, basta sentire il tono molto più fermo, molto più di Elisa rispetto al mio, un po' esagitato, per capire la saggezza. E Annalisa Cuzzocrea. Annalisa, buongiorno anche a te. Buongiorno Oscar, a tutti. Annalisa, ma come sta, bimba? Bene, sta dormendo. Ecco, vedi, ma io lo so che questo è l'esito che noi esercitiamo sui bimbi. Anche i miei, quando mi vedono uscire la mattina presto, alzano un occhio e dicono ciao scemo. Però un saluto ai bimbi di tutti coloro che sono in ascolto. Cominciamo con Annalisa, perché Annalisa tu oggi firmi un commento che è esattamente il leader di tutti i titoli dei giornali italiani, perché tu, il tuo commento in particolare è il retroscena del titolo di apertura La Frana di Grillo, il tuo retroscena è la faida interna tra i grillini, resa dei conti su Di Maio. Ma sì, nel senso che ieri alcune delle persone con cui abbiamo parlato, ovviamente coperte da anonimato ferreo, perché ieri alle 9 di sera è arrivata l'esposizione della comunicazione con un messaggino: non commentate i ballottaggi, non si parla con nessuno, devono parlare i candidati, ci hanno detto sono stati fatti molti errori e li hanno messi in fila. Non erano fortunati i 5 Stelle a questa tornata elettorale, perché si votava in posti dove c'erano stati dei guai grossi, delle divisioni interne, delle faide, pensiamo a quello che è successo a Genova, dove addirittura Grillo ha sconfessato la candidata che era venuta fuori dalla votazione sul blog. Parma è ben noto. Palermo le firme fa. Parma non ne parliamo, diciamo, il capolavoro, al contrario. Palermo le firme false, in cui due gruppi storici, uno è stato fatto fuori dalle firme false e da quando è stato fatto fuori non ha pensato altro che a danneggiare gli altri e ha mandato, addirittura aveva portato un esposto in procura contro il candidato Ugo Forello, poi archiviato dai magistrati. Per cui le faide hanno mandato all'aria i voti in queste città. La prova di Roma comunque pesa, perché Roma continua a non trovare delle soluzioni ai suoi problemi, ritrova Virginia Raggi, anche se i leader del 5 Stelle continuano a proteggerla, il blog continua ad osannarla per cose come il progetto sui Rom o la riforma dei mercati rionali. Roma non trova risposte e questo si vede, credo, anche a livello nazionale. Perfino Torino, che era un esempio buono, ha dimostrato con i fatti di Piazza San Carlo che c'è un'inesperienza delle amministrazioni 5 Stelle, che l'inesperienza si paga. Quindi non erano fortunati, non arrivava né in un momento fortunato questo voto né nei posti giusti. Però ci sono degli errori che sono stati fatti e le persone con cui ho parlato, visto che anche altri colleghi hanno scritto cose simili, se la prendono con Di Maio, perché Di Maio ufficialmente è responsabile degli enti locali, ma anche perché è di fatto il candidato in premier del movimento ed è quello che insieme a Grillo e Casaleggio e la comunicazione prende determinate decisioni. Ed è quello che tra legge elettorale e tutto il resto finisce spesso a prendere le botte dai suoi compagni di partito. Sì, più per esempio alcuni ci dicevano ma noi stavamo andando al voto dopo questo voto per inseguire Renzi sulla legge elettorale e Renzi ci voleva portare al voto dopo questa tornata amministrativa perché sapeva che ci andavamo a sfracellare testuale. E in più ci sono dei messaggi, ora a te può sembrare folle, però loro dicono perché abbiamo dovuto cambiare posizione sui vaccini, la nostra posizione storica non è Novax, perché però è che noi siamo contro l'obbligatorietà e che noi non siamo così convinti che tutti questi vaccini servono eccetera, abbiamo cambiato posizione per darci, no, una parvenza di credibilità, ma questo ci fa perdere, non paga. Ci fa perdere la nostra base. Insomma, queste sono le critiche che sono state mosse e nella notte di ieri è ovvio che poi partono i processi sommari, poi da oggi immagino che si cercherà a ragionare e a raddrizzare. Di certo c'era molto scontento, molto malumore e non pensavano di andare così male, anche se avevano messo in conto di andare male, questo sì. Allora, io non capisco una cosa, Elisa, perché mentre i giornali sono tutti univoci nel dire i 5 Stelle, non vedo commenti su un punto che a me sembra, siccome sono stupido, assolutamente stupido, fuori linea, non ho fatto carriera nei grandi giornali per questo evidentemente, però a me sembra questo. La crisi dei 5 Stelle, ripeto, dipende dalla convergenza delle liste sui sindaci. Se uno disaggrega i sindaci tra liste civiche, liste proprie e quelle dei vecchi partiti che le sostengono, quelli che vanno al ballottaggio, e resta alla cifra dei partiti puri, separati, e li paragona con i voti dei 5 Stelle che non vanno in ballottaggio, i 5 Stelle spesso, non dico quasi sempre, ma spessissimo, restano superiori alla cifra dei vecchi partiti. Quindi, col risultato, se facesse una legge elettorale nazionale proporzionale, l'effetto sarebbe completamente diverso e la crisi dei 5 Stelle sparirebbe. sparirebbe dal su cui titolano oggi tutti, perché ripeto, bisogna saper vedere gli effetti delle leggi elettorali. Allora, può essere che mi sbagli io. Se non sbaglio, vuol dire che centrodestra e Renzi dovrebbero volere insieme, proprio per i risultati di stamattina, una legge elettorale maggioritaria a livello nazionale, sfidando poi l'idea di chi va in ballottaggio. Invece vogliono l'esatto opposto, vogliono il proporzionale, rispetto al quale ciò su cui titolate tutti oggi sparirebbe. Dove sbaglio, Elisa? No, sono sostanzialmente d'accordo con te. Infatti noi parliamo di... sono completamente d'accordo, cioè questa crisi, cioè sicuramente c'è un arretramento del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo visto che in certi comuni raggiunge percentuali proprio molto basse, parliamo del 5%, del 10%, soprattutto al nord, ma anche al centro, e quindi la crisi c'è. Detto questo, come dicevi tu, è interessante vedere i voti degli altri, perché a me colpisce che il PD dappertutto non vince al primo turno, cioè si attesta esatto sul 30-20% in molti posti, e se passa al secondo turno, come dici tu, il merito è di una legge elettorale, cioè se rischia di vincere fra due settimane a molti comuni è perché c'è un sistema elettorale che appunto consente, che prende il 25%, poi di accedere al secondo turno e di giocarsela con il secondo. Però come dici tu, è merito del sistema elettorale. Il punto vero, come appunto osservavi tu, è che resta un sistema sostanzialmente tripolare, cioè i due partiti, centrodestra e centrosinistra, comunque non si avvicinano spesso nemmeno al 50%, ma c'è una legge elettorale che premia la governabilità. Ho capito. Però l'argomento per il quale il maggioritario non si applica a un'Italia tripolare è un ragionamento del PIFR, non so chi l'abbia inventato. Io sono d'accordo, ma non sta in te piedi. C'è l'argomento per il quale Renzi continua a dirci e il PD continua a telefonarci: gli italiani il 4 dicembre hanno scelto il proporzionale, è una bufala. Potete continuare a ripetercelo finché volete. Bufala è, bufala resta. Guardate i risultati di oggi e riflettete un pochino invece di ripetere la sciocca propaganda pur di non ammettere l'errore sul referendum. Allora, questa è la mia opinione, abrasiva apposta per farvi telefonare, naturalmente non la scriverei mai così. Sentiamo come la pensa per esempio Paolo, che ci chiama da Firenze. Sì, salve, buongiorno a sì tutti. Ora io premetto che ognuno, per carità di Dio, la può pensare come gli pare, su ogni cosa, per carità, ci mancherebbe. Io però sotto questo profilo dissento un po' da lei, nel senso che è vero che il 4 dicembre non si votava su un maggioritario, su un proporzionale, si votava su una riforma costituzionale, una cosa diversa, però era una riforma costituzionale fortemente legata a una riforma elettorale ultramaggioritaria, perché era previsto un ballottaggio che avrebbe portato comunque sempre una maggioranza importante in Parlamento, che è stata poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Sì, ma non è che la Corte ha bocciato. Male. Guardi, io le rispetto, però mi limito a dire questo. Non è che ha bocciato il maggioritario la Corte Costituzionale, ha bocciato come era costruito quel premio, e peraltro chi, anche sì, riservatamente, ha avvisato Renzi e la Boschi dopo l'intervento sul Senato, non scrivetela così, perché è ovvio che ve lo ca. Solo su quello è stato l'intervento, sto zitto. Però è la seconda legge che punta a un sistema maggioritario e la Corte Costituzionale cassa. Ma cioè, perché la cassa sullo stesso principio? La politica dovrebbe capire, però, se tu la riscrivi uguale, te la cassano quattro per me, volte. Per me questo non è il ruolo dei giudici. E vabbè, questo è un altro paio di maniche, su questo vengo dietro a lei, per carità di Dio. So, la penso così, però sto dicendo semplicemente che il 4 dicembre è andata così. Però, ripeto, io lo capisco. Lo ripetete, ma riflettete sul dato di oggi. Io mi limito a dire questo. Poi potete continuare a dire col referendum proporzionale. Riflettete sul dato di oggi. Guardate come è inevitabile, come muta il comportamento degli elettori in previsione di forme di governo, in questo caso il sindaco conta molto, e leggi elettorali diverse. E vedete l'effetto. E non capisco perché fare i suicidari, ma rimane la mia opinione. Abbiamo una pausa e poi torniamo. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci, tornati qua in diretta, sono le 8.45 primi 17 secondi, sono con noi Elisa Calessi e Annalisa Cuzzocrea. Sentiamo ancora l'opinione di qualcuno di voi, con Roberto da Cantù per esempio. Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare un attimo della Francia. Sì. Io ho una casa in Francia. Sì. Frequento abbastanza assiduamente anche Parigi, dove ho molti amici e ne ho molti a Nizza dove ho la casa. Sì. E la sorpresa per me sarebbe stata se non avesse stravinto Macron. Mm. Perché i francesi non ne possono più dei partiti politici e di quella classe politica che hanno, che è una roba incredibile, cioè non ne possono più di quelli che loro chiamano i cumulard, esatto. Che sono quelli che accumulano incarichi. Ci sono dei casi come il sindaco di Mentone che ha tutti gli incarichi previsti dalla legge e quelli che la legge non gli consente ce li ha sua moglie. Insomma, è una cosa incredibile. E i francesi, che in testa la rivoluzione ce l'hanno sempre, avevano in testa questa roba qui, ma io ho degli amici di sinistra e degli amici di destra. Di destra. Centro, non però esiste, vede, allora Roberto, io le dico, lei col suo termometro personale di presenza in quel paese, ha capito ciò che moltissimi miei colleghi non hanno voluto capire, fino a pochi giorni prima della lezione dell'Eliseo, ed erano ancora increduli, perché dicevano, ma col doppio turno un partito che non c'è non può fare puntare davvero la maggioranza assoluta. E la maggior parte di chi l'aveva capito, peraltro, lo ascriveva solo era la ragione per cui Le Pen poteva vincere, non certo un maverick, un imprevedibile venuto dal basso fuori dai vecchi partiti, ma con un linguaggio istituzionale e addirittura filo europeo. Ecco, quindi lei ha capito di più, secondo me, di molta della stampa italiana. Complimenti, però ci chiami spesso così ci dà qualche dritta. Carlo da Modena, Carlo. Sì, buongiorno, io volevo solo portare un piccolo puntiglio a delle affermazioni che sento da alcune ore. Una riguarda Macron, proprio l'interlocutore che mi ha preceduto, che parla di questa vittoria straordinaria. Ha avuto il 32% del 50% dei francesi, quindi in realtà il 15%. Guardi, però, il 5% dei francesi non ha votato Macron. Ho capito, ma no, il conto dei voti di sé si fa su chi vota. Questa storia che vi hanno messo in testa, che è il totale. Però chi non va, fatti suoi, si fa su chi vota. Su chi vota, guardi, nella storia, francese, ma non solo francese, un partito che non c'è e che col maggioritario si porta a casa con la percentuale sulla proporzione dei voti, ha ragione lei, 31, 32, 33 vedremo, ma gli eletti che porta a casa sono molto più di quelli che servono, cioè 289 che servono per la maggioranza assoluta. Quindi, in termini di sistema, un successone o no? Tecnicamente non fa una piega, mi limito, vale anche per l'Italia naturalmente, dove abbiamo dei 25% esatto, che governano delle regioni, quindi era soltanto un appunto tecnico. Il secondo riguardava Verona, la storia delle due destre. Sì. In realtà secondo me i veronesi non voteranno Sguarin, ma voteranno la moglie di Tosi. Perché la quale, secondo però, lei? Perché è il massimo dell'avversario Sguarin, mentre la moglie di Tosi ha già delle ribellioni rispetto al tradizionale centrodestra e quindi anche alla Lega, e secondo me il PD voterà la moglie di Tosi, la quale vincerà, ma vincerà con un compromesso col PD. Con un compromesso col PD, che è un po' anche, per essere chiari e ricordarlo, i parlamentari che hanno seguito Tosi nella rottura con la Lega a livello nazionale hanno sostenuto il governo, hanno votato quasi sempre con il PD, molto spesso, quindi il nostro ascoltatore ci restituisce un elemento. Elisa, per quello che riguarda centrodestra, però il risultato campana in sottofondo, sento, meraviglioso. Elisa, sì. Ma non ti sei ritirata, non hai preso i voti? No, no, no, fuori dalla finestra. Sei a Port Royal, mamma mia. Va bene, però il messaggio per il centrodestra, se uno vuole ridurlo ai minimi termini, è che nella Lega ha ragione Maroni e non Salvini, adesso Salvini mi ascolta, mi manda subito un messaggio di scomunica, sì, e che ha ragione Berlusconi sull'impostazione no euro e le Penian della Lega. Passerà mai questo messaggio oppure no? Questo è tutto da vedere, anche qui dipende molto dalla legge elettorale, cioè nel senso che è chiaro che quando devi sommare i voti, devi fare delle coalizioni come capita in questo sistema, nel sistema elettorale dei comuni, prevale il candidato non diciamo più estremo, perché la gente vuole essere governata da uno affidabile, cioè vuole fidarsi, cioè alla fine non, mentre nel voto di rappresentanza, cioè se devo votare quello che mi è più vicino posso anche votare uno che ha posizioni estreme, ma se devo votare quello che mi governa il ragionamento è diverso, e quindi secondo me è la stessa ragione per cui voi donne di solito vi innamorate e state spesso, esatto, insieme con i più belli e non come i più brutti come me, poi naturalmente vi lamentate delle conseguenze. Esattamente, la differenza tra la storiella e il matrimonio, capito? Sono due cose diverse. Grazie comunque di avermi considerato un catafalco, però va bene, d'accordo. Comunque, voglio dire, secondo me uno degli elementi proprio clamorosi di questa elezione sono infatti il centrodestra, perché adesso tutti ci siamo concentrati sull'arretramento dei grillini, eccetera, però qui il dato fondamentale è che il centrodestra c'è. Cioè, quando ci sono dei candidati, diciamo, credibili, affidabili, insomma, che danno l'impressione di essere in grado di governare, l'elettorato di centrodestra si rifà vivo. Io sono convinta che questo, cioè non solo io, insomma, è un paese sostanzialmente di centrodestra, e quindi alle elezioni si vede, cioè molto dipende dal candidato. Allora vedremo cosa fa il centrodestra, ma intanto Annalisa, andando invece all'altra parte, la parte renziana, PD che è uscito dal PD, Pisapia, MDP, insomma questo è un voto che all'alternanza del... Ieri c'era un titolo di un pezzo di Massimo Franco sul Corriere della Sera che diceva: l'alternanza ogni settimana delle alleanze del PD disorienta, e mi sembrava veramente che desse una perfetta sintesi della faccenda. Però il dato che emerge dalle comunali è evidente, a meno che Renzi dica infatti io voglio il proporzionale perché non voglio essere costretto a convergenze magari sotto leadership che non sono del PD, perché poi alla fine Orlando questo è, e così via. Che cosa può, come verrà letto secondo te? Guarda, io sono molto d'accordo con te, e penso anche che quello che è successo ieri, stanotte, farà ripensare un po' tutti questi fan del proporzionale, e magari anche nel centrodestra che non voleva il maggioritario, in Forza Italia ci sarà un qualche ripensamento sul sistema elettorale migliore. A sinistra che succede? Che non si capisce niente. Ah, ecco. Cioè, disorienta è davvero un eufemismo, e Franco è stato bravissimo a usarlo, però non si capisce nulla. Io ieri vedevo in televisione un esponente di MDP che diceva ma Catanzaro abbiamo vinto perché quella lista, che invece poi comunque quella lista non è neanche arrivata prima, e mi sembrava folle. E poi a un certo punto è arrivata, si capirà dalla mia voce che ieri abbiamo fatto le 2:30 in redazione, a un certo punto è arrivata la dichiarazione di Speranza che dice però i ballottaggi sosteniamo il PD, e quasi ci sembrava una notizia. Poi abbiamo pensato no, cavolo, non è una notizia, perché chi poteva sostenere il centrodestra? Ci siamo fermati un attimo, no, alte le pagine vanno bene. Che però è contemporaneamente, mi sembrava una notizia perché di fatto smentisce tutte queste cose di ultimi mesi, di ultimi 2-3 mesi, nei rapporti tra chi è uscito, chi non è uscito, chi resta dentro a contestare Renzi e così via. Cioè sembra tutta una roba lunare rispetto a questa cosa qui. Pure con Pisapia, no, ci hai fatto l'appello male, no? Però ce l'hai detto tardi, ma io voglio le primarie, no, io lo voglio con le secondarie. È una follia totale. Io penso che nelle storie del centro-sinistra sia davvero in questo momento totalmente disorientato, e sono d'accordo con Elisa, il dato di ieri più che su 5 Stelle dovrebbe dire qualcosa sulla destra di questo paese, e il PD secondo me è meglio che non sottovaluti. Esatto, cioè, nonostante le interviste, io anche ho fatto un'intervista a Salvini che diceva basta Berlusconi, non ha capito niente, però dopodiché nelle città vanno insieme e prendono molti più voti di quanto non sembri. Allora io ringrazio Annalisa Cutucrede, Elisa Calessi. E la notizia che mi fa più incazzare oggi l'ho trovata sul Corriere della Sera, anche richiamata in prima, e a pagina 22-23 del Corriere della Sera, io vi invito a leggerlo, troverete la sintesi di questo nuovo rapporto sulla sanità italiana, dalla quale non dei pericolosi liberisti, ma insomma persone di grande autorevolezza che difendono il welfare, dicono che ci sono 22,5 miliardi di sprechi, cioè ogni 10 euro se ne potrebbero risparmiare 2. Leggete queste due pagine, poi ne riparliamo, ma intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 16:30.